America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero. Donald Trump ha alzato il tiro ieri contro la Corea del Nord, si è incontrato con una delegazione cinese, chiede delle azioni decisive, soprattutto dopo la morte di Otto Warmbier, quel giovane studente di 22 anni che era stato imprigionato in Corea del Nord e poi di fatto ucciso dai suoi carcerati. Ecco, Donald Trump vorrebbe arrivare a un accordo con la Cina per isolare la Corea del Nord e per farle smettere, quantomeno, soprattutto dopo quest'ultima agghiacciante vicenda, di continuare con i suoi esperimenti nucleari. Quello che mi ha colpito è il dibattito che continua a svilupparsi attorno a quelle che sono poi state alla fine le dimissioni di Travis Kalanick, il fondatore di Uber, una delle compagnie più discusse del mondo. A questo punto ha deciso di dare le dimissioni, la notizia di ieri all'alba ora americana. Ecco, se ne parla molto perché insomma era diventato un uomo simbolo, Uber è un'azienda simbolo, ma soprattutto si continua a parlare di quello che è il settore attorno alle attività dell'automatismo nella guida. È un settore che si sta rivoluzionando sotto ogni punto di vista. Ci sono una gran quantità di cose che cambieranno, questo l'abbiamo detto anche in passato, ma vale la pena ripeterlo. Per esempio, in futuro si prevede che nessuno avrà mai più un'auto propria. Perché dover comprare un'auto quando un'auto parcheggiata vicino a te a casa potrà venire a prenderti e tu scegli la dimensione, scegli il percorso che devi fare, quest'auto magari arriva guidando da sola e ti porta poi a destinazione. Questo cambia tutto il mondo attorno al quale noi costruiamo la nostra esistenza con le automobili, col modo di muoverci. Lo cambia per il settore finanziario, perché molti comprano una macchina e prendono un finanziamento. Ecco, tutto questo non ci sarà più, ci saranno delle mega compagnie con dei mega garage e con delle macchine disseminate attorno alle città. Tutto sarà gestito in modo alquanto centralizzato. Lo stesso naturalmente vale per i meccanici, per le compagnie di assicurazione. Insomma, è un mondo che potrebbe davvero cambiare e Uber è stata la prima, se vogliamo, a portare questa rivoluzione. Per ora c'è un guidatore che ti viene a prendere, però la transazione avviene attraverso un telefonino, attraverso di fatto un computer, e tutto viene regolato in modo automatico. Non c'è bisogno di pagare perché, come sapete, con Uber il costo della corsa viene caricato direttamente su carta di credito. Autonomous cars will affect our mobility dramatically. It will affect private players, commercial players and public players. Ecco, questo è un settore che si sta sviluppando, che sta prendendo corpo, che pensate, secondo le stime di Intel, nel 2035 varrà 800 miliardi di dollari, nel 2050 addirittura a 7.000 miliardi di dollari. E stiamo entrando nella porta del futuro. Ecco, ad oggi ci sono ben 22 case automobilistiche che sono in corsa contro Google, contro Apple, contro Uber, per cercare di non perdere quantomeno il primato della produzione, perché sappiamo che Google, Apple o Tesla, naturalmente è già entrata pesantemente sul mercato, Tesla è l'automobile elettrica, e dunque, per esempio, sapete che la Ford ha nominato il suo amministratore delegato scegliendo colui che era a capo proprio della divisione elettrica. We are learning more about the driver killed while riding in his self-driving car. A witness now tells Inside Edition the driver may have been watching a Harry Potter movie at the time of the crash. Ecco, avete sentito qui la notizia del primo incidente mortale, 7 maggio 2016 in Florida. Un quarantenne, Joshua Brown, decide di lasciare il volante della sua Tesla e di vedersi un film. Questo mentre viaggiava in autostrada. Inserisce l'autopilota, lo aveva già fatto molte volte, aveva scritto anche dei piccoli saggi su questi suoi esperimenti e si guardava un film di Harry Potter, pensate. A un certo punto l'auto, senza preavviso, è andata a schiantarsi contro un tir. Non ha neanche rallentato. Notate bene che la Tesla dice: attenzione, inserite il pilota automatico, ma state con le mani sul volante, perché ancora non siamo in grado di garantirvi la sicurezza totale. Come ci arriveremo a questa sicurezza totale? Beh, ci arriveremo continuando a sperimentare. E dunque, i primi esperimenti avvengono in una sorta di città fantasma, si chiama M-City, dove M sta per Michigan. Michigan è il simbolo dell'auto in America, e questa è un'iniziativa dell'Università del Michigan. È una piccola metropoli in miniatura che misurerà circa 13 ettari e sarà inaugurata il prossimo 20 luglio, quindi vi do una notizia in anteprima. È costata questa città artificiale 6 milioni e mezzo di dollari, è nata grazie alla collaborazione fra l'Università del Michigan, appunto, e grandi costruttori, cioè Ford, General Motors e Toyota. E lì ci saranno soltanto macchine che guidano da sole. Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Jesus! Un'altra cosa che cambierà nella storia americana è che, beh, avete sentito, questa era una protesta dei Teamster, il Teamster è il sindacato dei camionisti, e quei camion si guideranno da soli, a un certo punto sparirà, e questo è programmabile, programmato da qui a 10-15 anni, non sappiamo quanto, la figura a cui siamo affezionati, che fa parte del nostro tessuto sociologico, la figura del camionista. Ecco perché? Ma perché questi camion saranno molto più efficienti nel guidare da soli. Si è dimostrato che ci sono meno incidenti in proporzione se sono dei camion controllati da GPS o comunque da sistemi di navigazione di pilota automatico. È nata anche un'azienda, si chiama Otto, proprio per camion, solo per camion che guidano da soli, poi è stata acquistata da Uber per $680 milioni. E questa cosa del camionista mi colpisce molto perché, attenzione, non stiamo parlando soltanto del fatto che un camionista magari non avrà più il suo posto di lavoro tradizionale, ma del fatto che ci sono in America 2 milioni di camionisti, almeno 2 milioni di camionisti, i quali si fermano per strada, vanno da un McDonald's, comprano una bibita, cioè c'è un indotto commerciale e al consumo che ha un valore non da poco e anche questo dovrebbe tendere a scomparire. Ecco, e il futuro? Beh, il futuro è senza limiti perché si sta già pensando alle auto che si trasformano in piccoli elicotteri. C'è stata una società olandese, la PAL Vic, che ha messo appena poco fa in prevendita il suo nuovo prototipo di auto volante, modica cifra di €299.000. Il nome di questo nuovo veicolo è Liberty, è la prima auto volante commerciale certificata dalla storia. Come è fatta? È un'auto a tre ruote che ha delle eliche ed è in grado di trasformarsi appunto da auto a elicottero e dovrebbe essere alquanto semplice da pilotare perché di nuovo molto sarà automatico. Silicon Valley, Silicon Valley reagisce, è già attiva su questo. Ci sono, pensate, 12 piccole aziende che stanno lavorando a progetti simili. La Kitty Hawk, per esempio, ha testato 2 mesi fa su un lago californiano un modello sperimentale, una sorta di hovercraft con elica, con lo spazio però per una sola persona. Insomma, il futuro è davvero dietro l'angolo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre nuove frontiere inesplorate. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di futuro, siamo già in qualche modo nel futuro, lo vediamo. E dunque di Bruce Springsteen, Living in the future. A liquor come blowing in on an ear wind. Something about me and you, never see one another again. Yeah, well, I knew it come. Star struck deaf and dumb. Like when we kissed, that taste of blood on your tongue. Don't worry, darling. But baby, don't you fret. We're living in the future, and none of this has happened. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!